Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend, che si apre come di consueto con la copertina, che questa settimana è dedicata ai test oggi a disposizione per fare diagnosi di Covid. Copertina che oggi abbiamo affidato alla dottoressa Ariela Benigni, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo e segretario scientifico. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Benigni, torniamo a parlare di test per raccogliere tutte le informazioni che possono aiutarci a scegliere bene. Il titolo della nostra copertina potrebbe suonare così: test, quali, quando e per chi? Ci è sembrato utile e necessario tornare su questo argomento, dato che il cittadino può sottoporsi a test autonomamente, senza quindi l'indicazione del medico curante, recandosi in un centro o un laboratorio privati. Lei che ne pensa? Come valuta intanto questa opportunità in termini di benefici e rischi? Intanto premettiamo che ci sono due tipi di test sierologici. Uno che si effettua su goccia di sangue che si preleva dal dito dopo una puntura e lo chiamiamo pungidito. E un altro test invece si effettua su prelievo venoso ed sì, è un test ELISA. Di solito il test rapido pungidito si fa con il proprio medico, mentre per il test ELISA, dal momento che c'è bisogno di un prelievo, si fa in laboratorio, ora anche in laboratori privati. In generale, cosa dicono questi test? A cosa servono? Servono per stabilire quanti di noi hanno incontrato il virus e quanti hanno sviluppato anticorpi. Hanno poco interesse quindi a livello individuale. Personalmente ritengo che non andrebbero fatti per uso personale. Sono studi più che altro, sono test da applicare a studi di carattere epidemiologico per capire quanti soggetti in una popolazione, per esempio, hanno sviluppato anticorpi. Bisogna però dire che nessuno di questi test fornisce una patente di immunità di cui ogni cittadino è alla ricerca. Ecco, tanto per fare chiarezza. Dottoressa Benigni ci ha parlato di due tipi di test, il pungidito e l'esame sierologico con prelievo venoso, ma vogliamo anche parlare dei tamponi. Cioè, facciamo un piccolo e rapido ripasso per rinfrescare la memoria, perché ogni test ha una sua funzione particolare e permette di indagare fasi diverse della malattia. Sì, il tampone è un test complesso. Evidenzia la presenza di virus in diversi distretti, nel naso, nella bocca e nel faringe. Essere positivi al tampone può dipendere dalla fase della malattia, ma anche in una condizione molto precoce, per esempio subito dopo il contagio, il soggetto potrebbe essere negativo perché non è ancora in grado di rilasciare particelle virali dalle mucose del naso e della gola. Però nello stesso tempo lui può contagiare altri soggetti, quindi questo è un caso in cui con tampone negativo però il soggetto ha una capacità infettiva importante. Del resto noi possiamo anche però pensare a tamponi che sono negativi, per cui una persona va in giro molto allegramente e però il giorno dopo che ha fatto il tampone contrae una malattia e quindi il risultato cambia completamente. Quindi perché il tampone è un'istantanea, giusto? Esatto, il tampone. Esatto, il tampone proprio fotografa istantaneamente la situazione di un momento, che può essere anche una situazione di positività, ma in quel momento non è abbastanza positivo per determinare il contagio o comunque per fare in modo che una persona possa essere considerata in contagio. Invece i test serologici, come abbiamo detto, ci servono per capire se abbiamo incontrato il virus e abbiamo sviluppato anticorpi. Questi invece ci danno un'idea di come siamo dopo che abbiamo avuto i contatti con malati o se siamo stati ammalati. Certo, per cui ci sono dei tempi diversi. Certo, ci sono assolutamente dei tempi diversi di tampone e di test sierologici. Dottoressa Benigni, prendiamo il nostro signor, diciamo un caso, Mario Rossi. Come fa a capire se gli conviene fare il test e come fa a scegliere il test che fa al caso suo? Secondo me il signor Rossi non dovrebbe decidere da solo. Però può farlo adesso. Adesso può farlo, però il mio consiglio è di decidere con il suo medico. Mm. Allora, se il suo medico ha un sospetto, ci sono vari esempi, se il suo medico ha un sospetto di Covid, ovviamente gli fa fare il tampone. Mm. Se però c'è ragione... Ma non in un laboratorio privato questo. Allora, se è ammalato, attraverso il medico di base con l'ATS si possono fare i tamponi, quindi si può fare. Questo è questa è la prassi. Se però c'è ragione di fare un test sierologico perché o il soggetto rientra in uno screening di popolazione, oppure il signor Rossi pensa di aver fatto la malattia e vuole sapere se ha sviluppato gli anticorpi, allora in questo caso il suo medico gli farà fare un test sierologico per capire se ha sviluppato anticorpi, e questo lo può fare. Ma se uno il medico non lo interpella, dato che possiamo anche non interpellarlo, come possiamo comportarci? Allora, quando uno lo fa senza il medico e da solo, l'interpretazione poi dei risultati è abbastanza complessa, quindi il mio consiglio è comunque di non farlo in modo indipendente, anche se adesso c'è la possibilità di farlo. L'offerta è ampia e diversificata. Dottoressa Benigni, ci aiuta a capire quali sono le informazioni che dobbiamo chiedere o ricevere dal laboratorio a cui ci rivolgiamo? Certo. Beh, intanto bisogna dire che se noi eseguiamo dei test sierologici li facciamo da soli, nel caso di positività agli anticorpi noi dovremmo segnalarlo, perché chi è positivo agli anticorpi è obbligato anche a fare il tampone per un decreto, e quindi questa è la prima cosa. L'ATS non è in grado di soddisfare tutte queste richieste, e oltre a quelle che oltre alle segnalazioni che il medico di base fa per i soggetti ammalati, quindi si dovrebbero scegliere dei laboratori che siano in grado di fare i test e i tamponi, e ce ne sono adesso, e naturalmente poi per quanto riguarda l'esecuzione e i tempi bisogna chiedere poi ai singoli laboratori. Certo. Sentiamo parlare di test qualitativi e quantitativi, ma anche di metodi di rilevazione immunoenzimatico o immunochemiluminescente. Sono parole complicate, sembrano degli scioglilingua, ma che cosa significano? Sono importanti? Ci aiuta a fare un po' una differenza? Ci servono per scegliere bene? Allora, i test rapidi sono pungidito, sono per loro natura qualitativi, cioè ci dicono se hai anticorpi o non li hai, quindi presenza o assenza. Il test invece ELISA è quantitativo, cioè ti dice quanti anticorpi hai prodotto. Certo. Quindi c'è una grande differenza. I due test, ELISA o CLIA, si basano su due metodi di rilevazione che sono diversi, che hanno una sensibilità paragonabile, anzi forse il CLIA l'ha leggermente superiore all'ELISA, però direi non è una grandissima differenza. In generale però chi si sottopone al test non ha interesse a sapere che metodo si usa, perché entrambi i metodi, sia ELISA che CLIA, se vogliamo un quantitativo, vanno bene. Allora, così abbiamo chiarito. Lei ha già anticipato che questi test non danno comunque una patente di immunità, ma a proposito di immunità, proprio nei giorni scorsi a Obiettivo Salute abbiamo parlato di uno studio che vede la collaborazione di 48 laboratori italiani, che ha proprio l'obiettivo di valutare se, abbiamo parlato di anticorpi, quindi se la presenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2 protegge dalla reinfezione per quanto tempo. Il progetto tra l'altro si basa su un nuovo test sierologico che è stato messo a punto dallo IEO e dall'Università di Pavia. Ma dottoressa Benigni, la ricerca è impegnata a trovare soluzioni per ogni fase dell'infezione. Ci sono degli studi promettenti, delle ricerche che stanno andando in questa direzione? Ci vuole a qualche novità per noi? Intanto in istituto al Mario Negri noi stiamo cercando di capire se un test sierologico rapido possa sostituire il test prelievo venoso, perché non possiamo pensare che un test prelievo venoso possa essere applicato a tutti. Nello stesso tempo però ci sono tantissimi altri laboratori che sono impegnati proprio a valutare se i soggetti hanno sviluppato anticorpi, soprattutto i famosi anticorpi neutralizzanti, che sono quelli che ci piacciono. Allora, sono quelli che ci piacciono, però attenzione, gli anticorpi neutralizzanti sono quelli che in teoria neutralizzano il virus, quindi impediscono che il virus continui a essere infettivo. Allora, ci fermiamo qua, che la cosa si fa interessante. Ci fermiamo, facciamo una piccolissima pausa, ritorniamo subito dopo con la dottoressa Benigni, che ci chiarisce il concetto, ci dà le informazioni che ci portiamo a casa e poi proseguiamo. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio! Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro! Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio! Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB! Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra! Sì, però svegliati, Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. Obiettivo Salute Weekend. In cerca degli anticorpi neutralizzanti. Chi sono? Cosa fanno? Dove li trovo e come li trovo? Ne stiamo parlando con la dottoressa Ariela Benigni, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo e segretario scientifico, con cui abbiamo fatto una panoramica dei test oggi a disposizione, dato che volevamo raccogliere le informazioni necessarie. Sappiamo che oggi è possibile per il comune cittadino rivolgersi a centri e laboratori privati per effettuare dei test. La dottoressa Benigni suggerisce di farsi accompagnare, tra virgolette, dal medico, ma c'è chi invece decide di farlo da solo. Dottoressa Benigni, ci siamo fermati sul più bello: anticorpi neutralizzanti. Sì. Chi ha avuto una malattia in forma medio-grave ha sviluppato anticorpi, ma non tutti gli anticorpi proteggono. Ci sono degli anticorpi particolari che si chiamano anticorpi neutralizzanti, che sono anticorpi che ti proteggono contro la reinfezione. In questo momento si possono valutare attraverso dei test con prelievo venoso, anche se adesso si stanno attrezzando anche test rapidi per questi anticorpi neutralizzanti. Non si sa però molto su questi anticorpi neutralizzanti. Non si sa se intanto ti danno ti proteggono dalle infezioni, lo stiamo studiando. E poi per quanto tempo? Alcuni probabilmente potrebbero essere, se hanno sviluppato una malattia grave, potrebbero essere coperti per 4 settimane, alcuni per qualche mese, ma c'è una grande variabilità individuale e quindi bisogna studiare. Studiare. Quali altri? Ecco, anche abbiamo parlato in questa settimana anche di un test salivare rapido che è stato sperimentato all'ospedale di Circolo di Varese. Nasce proprio da un ricercatore, dall'intuizione di un ricercatore dell'Università dell'Insubria di Varese. Insomma, la ricerca va avanti per darci delle soluzioni per la diagnosi rapida e per, anche lo stiamo vedendo sempre più ogni giorno, anche per curare la malattia. Dottoressa, ecco, tenga presente che il test salivare rapido potrebbe sostituire il tampone. Ecco. Il tampone ha grossi limiti. Perché, dottoressa? Beh, intanto perché la sua affidabilità non è assoluta. Consideriamo che ha una sensibilità al massimo del 70%, che vuol dire che su 100 malati ne identifica 70 e gli altri 30 sono falsi negativi. Quindi c'è un problema di sensibilità. Ci sono tantissime variabili, per esempio chi lo esegue. C'è uno studio che fa vedere che se eseguirlo è un otorino, i tamponi sono molto più affidabili che eseguiti da medici di altre specialità o addirittura da infermieri. Perché bisogna avere un po' la mano, no, dottoressa? Assolutamente. Poi come lo si esegue? C'è proprio una polemica adesso che come lo si esegue è molto importante, anche per non lasciare dei problemi e delle sequele che sono originate proprio dal prelievo fatto male. Poi bisogna capire anche che tipo di campione si preleva, se è abbastanza per esempio per fare il test poi in laboratorio, e ci sono dei problemi legati alla metodologia. Quindi il tampone ha dei grossi problemi. Se riusciamo a sviluppare un test salivare che nella saliva ti dice che hai particelle di virus, questo sarebbe molto meglio ed eviterebbe anche il problema del prelievo e dell'operatore. Ci fa un ripassino rapido per il nostro signor Rossi? Che cosa dobbiamo sapere, come scegliere, perché e come? Io lo so che lei vuole che andiamo con il nostro medico, ma ogni tanto facciamo d'accordo. Di testa nostra. Va bene. Allora, siamo italiani. Sì. Allora, vabbè, intanto io direi non abbandonare questa religione del tampone, perché i tamponi non sono la soluzione di tutti, quindi non bisogna anelare a farli, non vanno fatti a tappeto perché l'affidabilità è relativa. Quindi vanno soprattutto confinati a soggetti che hanno un rischio, per esempio personale sanitario o personale stretto contatto col pubblico. I test sierologici invece sono uno strumento formidabile per mappare la popolazione, quindi sono dei grandi strumenti epidemiologici e ci dicono anche i test rapidi, e di questo potremo essere più certi dai risultati dello studio dell'Istituto Mario Negri, che appunto ha l'obiettivo di valutare quali sono i test sierologici rapidi e affidabili, perché in questo modo ciascuno se li potrebbe fare per sé. E questo è il secondo concetto. Il terzo concetto è di capire meglio che cosa qual è l'immunità che ci danno, se ce la danno, gli anticorpi neutralizzanti e se ci proteggono, e quindi per questo però invece siamo ancora molto molto indietro, dobbiamo studiare moltissimo. Dottoressa Benigni, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e come sempre se ci sono buone nuove o comunque nuove, noi siamo qua. Va bene. Grazie. Alla prossima, arrivederci. Siamo pronti per il nostro allenamento settimanale con il team di psicologi di Engage Minds Hub, che ha preparato per noi un vero e proprio programma di allenamento psicologico per attrezzarci ad affrontare il cambiamento motivati. In linea con noi, naturalmente, ormai è una presenza fissa la professoressa Gwendalina Graffigna, che è ordinario di psicologia dei consumi e direttore di Engage Minds Hub, che è un centro di ricerca dell'Università Cattolica. Buongiorno professoressa Graffigna. Buongiorno, ben ritrovati. Ma come stiamo andando? Bene, benissimo. Intanto facciamo un appello, lo lascio a lei, a tutti gli ascoltatori che ancora magari non ci conoscono o non si sono misurati con noi, con gli esercizi che voi suggerite, perché conviene farlo. La pagina di Obiettivo Salute è a vostra disposizione, così come la pagina di Engage Minds Hub. Professoressa Graffigna, perché conviene allenarsi? Conviene allenarsi perché dobbiamo arrivare a questo approccio un po' nuovo del coinvolgimento attivo nella gestione della salute, che tecnicamente si chiama engagement, e che vuol dire capire quanto siamo dei protagonisti nel nostro percorso di salute, nel senso che dobbiamo essere più consapevoli, più responsabili della nostra prevenzione per noi e per gli altri. Ed è possibile anche proprio fare un test sulle pagine di Obiettivo Salute e le pagine del nostro centro, potete trovare il test per misurare dove siete oggi e che cosa vi manca per andare un po' più avanti, e poi seguendo i nostri esercizi settimana di settimana possiamo migliorare. E questi esercizi sono esercizi molto semplici, seppur fondati nella ricerca scientifica e nella pratica della psicologia della salute, e partono dall'anagramma di questa parola tecnica che vi dicevo prima, engagement, e quindi abbiamo già fatto la E e abbiamo parlato dell'importanza dell'empatia, abbiamo fatto la N, abbiamo parlato dell'importanza di navigare le corrette informazioni, abbiamo parlato della G come gestione dello stress, della A come affidarsi, avere fiducia in sé e negli altri, e l'ultima volta ci siamo lasciati con un'ultima G, che è il gustare il tempo presente. Mi piace, ma mi piace anche la parola di oggi che inizia con la E. Ed è un ingrediente fondamentale per le relazioni e per la nostra vita. Professoressa Graffigna. Sì, la parola di oggi è entusiasmo. E lo so che può sembrare un po' paradossale parlare di entusiasmo nelle difficoltà di queste settimane, però se andiamo a vedere addirittura l'etimologia greca di questa parola, significa entheos, cioè il Dio dentro di te, il divino dentro di te. E in fondo indica quella forza creativa, quell'energia positiva che ognuno di noi ha dentro di sé. il punto qua è riuscire a riconoscerla, a trovarla, alimentarla, lasciarla accesa anche nei momenti faticosi, perché infatti riaccende un po' la passione per la vita, per le nostre attività quotidiane. Ecco, riaccendiamo un po' i motori, professoressa. Esatto. E infatti l'esercizio di questa settimana è proprio così: accendi il tuo entusiasmo. E allora, molto semplice, provate a pensare a quell'ultima volta in cui vi siete sentiti entusiasti, cioè appassionati, in cui vi siete sentiti pieni di energia, di forza nel compiere una determinata attività, un compito, in cui vi siete sentiti capaci di superare gli ostacoli, di farcela. Ebbene, allora, pensateci un attimo, analizzate questa situazione, cercate di capire bene quali erano le situazioni e le condizioni che vi hanno aiutati o a sentirvi così. Certo, magari c'erano delle situazioni del contesto, però pensate anche alle situazioni in voi stessi e quei pensieri, quelle forze che vi aiutano proprio a trovare questa energia interiore. Ecco, l'esercizio di questa settimana vuole essere questo: troviamo questa chiave nostra personale, la chiave del nostro entusiasmo. Proviamo a riconnetterci con questa forza interiore anche nelle difficoltà, e poi una volta che troviamo la chiave, quando si trova la chiave è fatta. Professoressa Graffigna, grazie. Trovate tutto sulle pagine Facebook di Obiettivo Salute, ma anche del centro di Engage Minds Hub. Io ringrazio Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi do appuntamento a domani alle 12 alla Bufala in Tavola. Buona giornata.